lo padre e i figli, e con l'agute scane mi parea lor veder fendere li fianci. Quando fui desto innanzi la dimane, pianger sentì fra gli sonno i miei figliuoli che eran con meco, e domandar del pane. Ben sei crudel se tu già non ti duoli pensando ciò che il mio cor s'annunziava, e se non piangi, di che pianger suoli? Già eran desti e l'ora s'appressava che il cibo ne solea essere addotto, e per suo sogno ciascun dubitava, e io sentii chiavar l'uscio di sotto all'orribile torre, ond'io guardai nel viso ai miei figliuoli senza far motto. Io non piangea, si dentro impetrai piangeva Nelli, e un selmuccio mio disse: tu guardi sì, padre, che hai? Perciò non lacrimai, né risposio tutto quel giorno, né la notte appresso, infin che l'altro sul nel mondo uscio. Come un poco di raggio si fu messo nel doloroso carcere, e io scorsi per quattro visi il mio aspetto stesso. Ambo le man per lo dolor mi morsi, ed ei, pensando che il fessi per voglia di manicar, di subito levorsi e disser: padre, assai ci fia mendoglia se tu mangi di noi. Tu ne vestisti queste misere carni e tu le spoglia. Quetai-mi allor per non farli più tristi. L'udì e l'altro stemmo tutti muti. Ai dura terra, perché non t'apristi? Poscia che fummo al quarto di venuti, Gaddo mi si gettò disteso ai piedi, dicendo: padre mio, che non m'aiuti. Vivi morì, e come tu mi vedi, di Dio cascar di tre ad uno, tra il quinto di e il sesto, ond'io mi diedi già cieco a brancolar sopra ciascuno, e due di li chiamai, poi che fur morti. Poscia, più che il dolor il digiuno, andebbe detto ciò con gli occhi torti, riprese il teschio misero coi denti che furo all'osso come d'un can forti. Ai Pisa, vituperio delle genti del bel paese, là dove il sì sona, poi sei vicini a te punir sollenti, muovasi la capraia e la gorgona, e faccian siepe ad Arno in sulla foce, sicché gli annieghi in te ogni persona. Thank you.

Io sono amore angelico che giro l'alta letizia che spira dal ventre che fu albergo del nostro desiro e girerommi donna del ciel mentre che seguirai tuo figlio e farai via più la spera suprema perché li entre così la circulata melodia si sigillava e tutti gli altri lumi facean sonar lo nome di Maria. Al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, cominciò gloria tutto il paradiso, sicché m'inebriava il dolce canto. Ciò ch'io vedeva mi sembiava un riso dell'universo, perché mia ebbrezza entrava per l'udire e per lo viso, o gioia, o ineffabile allegrezza, o vita integra d'amore e di pace, o senza brama sicura ricchezza, dinanzi agli occhi miei le quattro facce stavano accese, e quella che pria venne incominciò a farsi più vivace, e tal nella sembianza sua divenne, qual diverrebbe Giove se gli e Marte fossero augelli, e cambiassersi penne, la provvidenza che qui vi comparte vice ed officio nel beato coro silenzio posto via da ogni parte, quando io udì, se io mi trascoloro, non ti maraviar, che dicendo io vedrai trascolorar tutti costoro. Quelli usurpa in terra il luogo mio, il luogo mio, il luogo mio, che vada nella presenza del figliuol di Dio, fatta del cimiterio mio, cloaca del sangue e della puzza. Onde il perverso che cadde di quassù laggiù si placa. Di quel color che per lo sole avverso nube di pigne da sera e da mane vidio allora tutto il ciel cosperso e come donna onesta che permane di sé sicura e per l'altrui fallanza pur ascoltando timida si pane così Beatrice tramutò sembianza, e tale eclissi credo che in ciel fu e quando patì la suprema possanza, poi procedetter le parole sue con voce tanto da sé trasmutata che la sembianza non si mutò più. Non fu la spasa di Cristo allevata del sangue mio di lì di quel di Cleto per essere ad acquisto d'oro usata, ma per acquisto desto viver lieto e sisto, e Pio e Calisto e Urbano sparser lo sangue dopo molto fleto. Non fu nostra intenzion che a destra mano dei nostri successor parte sedesse parte dall'altra del popolo cristiano, né che le chiavi che mi fuor concesse divenisser signaculo in vessillo che contra battezzati combattesse, né ch'io fossi figura di sigillo a privilegi venduti e mendaci, ond'io sovente arrosso e di sfavillo In vestà di pastor lupi, rapaci, si veggion di quassù per tutti i paschi, o difesa di Dio. Perché purgaci del sangue nostro caorsini e guaschi s'apparecchian di bere, o buon principio, a che vil fine convien che tu caschi? Ma l'alta provvidenza che con scipio difese a Roma la gloria del mondo, soccorra tosto sì con mio concipio. E tu, figliuol, che per lo mortal pondo ancor giù tornerai, apri la bocca e non asconder quel ch'io non nascondo. Felice signe sorum malacot. Così volgendosi alla nota sua, fu viso a me cantare essa sostanza, sopra la qual doppio lume s'adua, ed essa e l'altre mossero a sua danza, e quasi velocissime faville mi si velar di subita distanza. Io dubitava e dicea: dille, dille fra me, dille, dicea alla mia donna che mi disseta con le dolci stille. Ma quella reverenza che si indonna di tutto me, pur per be e per ice, mi ritinava come l'uom c'assonna. Guido, mi vorrei che tu e l'apo ed io fossimo presi per incantamento e messi in un vasel che ad ogni vento per mare andasse, al voler vostro e mio, sì che fortuna o d'altro tempo rio non ne potesse dare impedimento, anzi, vivendo sempre in un talento di stare insieme, crescesse il disio, e monna Vanna e monna Lagia poi con quella che in sul numero delle 30 con noi ponesse il buon incantatore, e qui vi ragionar sempre d'amore, e ciascuna di lor fosse contenta, siccome credo che saremmo noi. Tanto gentile. Tanto gentile e tanto onesta pare la donna mia quand'ella altrui saluta con la lingua de ben tremando muta e gli occhi non l'ardiscon di guardare. Ella si va sentendosi laudare benignamente d'umiltà vestuta e par che sia una cosa avvenuta da cielo in terra, a miracol mostrare, mostrasi sì piacente a chi la mira, che dà per gli occhi una dolcezza al core, che intender non la può chi non la prova, e par che dalla sua labbia si muova uno spirito soave, pien d'amore, che va dicendo all'anima, sospira.